misleading colors. Misleading colors. Misleading colors. For the eye to see. Misleading colors. Misleading colors. Misleading colors. For the eye to see. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire i nostri ospiti, gli Stone Machine. Sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare anche in web streaming nel sito www.radiorcs.it. Ed è l'hard rock degli anni 70 di stampo americano, l'hard blues inglese dei fini 60 e l'inizio 70. Prima canzone dei Gods, band hard rock psichedelica di cui vi erano i futuri Uriah Heep, Ken Hensley e Lee Kerslake, che dal disco Genesis del 1968 ci hanno fatto sentire il brano Misleading Colors. Mancavano 3 anni al grande successo con la storica hard rock band, ma già Ken Hensley aveva delineato parte del sound della futura formazione. Cosa ne dite? Beh, in effetti il sound qui era già proprio delineato, quasi maturo, perché comunque io personalmente ho sempre adorato questo sound di chitarra e soprattutto il suono della batteria, che oggi non si fanno più i dischi in questo modo, per cui sarebbe improponibile, però davvero quel tipo di suono di batteria io l'ho sempre adorato. Poi batteria nel mezzo, basso a destra, chitarra a sinistra, le armonie di voce veramente eccezionali. Chitarra molto Hendrix ci ho visto io in questo pezzo. Sì, è vero. L'hai sentito bene. C'era l'influenza comunque hendrixiana, sì, esatto. Molte band inglesi di quell'epoca. Human Regression è il titolo del vostro disco. Qual è il significato di queste due parole? Ma Human Regression, in pratica la regressione umana, per noi è un concetto che vuole esprimere la necessità di ritrovare il lato umano delle persone che in queste generazioni è andato ormai perduto, proprio per un tipo di vita legato comunque alla tecnologia, che in un qualche modo ti rende schiavo, no? Poi della tecnologia, nel senso che Le persone sono schiacciate dalla società moderna e non trovano più il tempo per... Quasi automatizzate, ecco. Esatto, non trovano più il tempo per pensare ai veri valori della vita. Certo. Tutto, sono come delle macchine sballate, non pensano. Quindi con la regressione umana forse è il sistema per ritrovare la propria umanità. È una sorta di... fermati un attimo a pensare, no? Guarda cos'è che ti serve, certo, veramente di tutto questo. Quali sono le cose che veramente ti migliorano la vita e quelle che invece in fondo ti rendono schiavo e servono solo per arricchire chi le produce in realtà. Nel 1971 esce Rock On degli Humble Pie, la super band formata da Stevie Marriott e Peter Frampton. Finito il periodo di influenze psichedeliche, passa ad un hard blues più diretto e feroce. Da quel disco il brano Stone Cold Fever. Anche nel frangente inglese molte hard rock band dei 70s sono sconosciute o quasi al grande pubblico. Un vostro commento sugli Humble Pie? Guarda, più che un commento mi viene in mente un episodio di quando ero veramente ragazzino, che c'era sto mio amico che più grande di me che mi voleva far ascoltare gli Humble Pie, solo che io ero orientato molto più sul suono californiano di fine anni 60, primi 70, quindi non ero pronto per quel genere di cose. Poi chiaramente in futuro ho avuto modo di riscoprirle. È chiaro che il discorso di prima, cioè quel tipo di sound veramente pazzesco di quegli anni, oggi non, purtroppo si è andato perso. Vostre influenze musicali quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle canzoni? Beh, sicuramente le influenze musicali di ogni componente della band sono molte differenze, dovute anche a un'età differente dei diversi componenti della band. Io personalmente ho ascoltato sin dall'inizio il grunge anni 90, quindi Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, eccetera, Alice in Chains. Quindi ho preso molto da quella corrente, più che dal rock anni 70. Sì, infatti, per dire, io sono sempre stato molto più orientato invece, come dicevo prima, sul sound californiano di fine anni 60, anni 70, e poi il mio grande ispiratore è sempre stato Neil Young, e quindi ho sempre seguito tutto quello che gravitava attorno a lui, a quella scena lì. C'è da dire che Igor è molto più legato, il batterista è molto più legato alla scena glam di fine anni 70 e anni 80 americana, per cui lui proprio il Motley Crue, Guns N' Roses, esatto. Sì. Filippo invece, il bassista, lui è abbastanza particolare nei suoi gusti, perché è il più stoner. Esatto, forse lui è il più stoner di tutti e comunque anche il più propenso alle sperimentazioni, e quindi il suo bagaglio musicale gli permette proprio di orientarsi nelle sperimentazioni abbastanza particolari, insomma originali. Quindi sicuramente le influenze musicali precedenti di ognuno hanno influito nella scrittura dei pezzi della band. Questa varietà di componenti e periodi musicali differenti ha fatto sì che fossero nati i pezzi dei Stone Machine. Chiudiamo allora la seconda parte con i Free, la band di Paul Rodgers e Paul Kossoff. Nel 1970 pubblica il disco Fire and Water, che si rivelerà il loro album di maggior successo, in bilico tra rock blues e rock duro. Ci sentiamo la title track e dopo la pausa spot sarà la volta degli Stone Machine, in cui ascolteremo 6 canzoni da Human Regression. Restate in ascolto. I don't wanna say